Il tennis rendeva Ettore ridicolo tanto quanto la PlayStation lo rendeva leggendario. A dirgli di cambiare sport ci avrebbero pensato i genitori. Ci saranno degli svantaggi ad avere dei figli, no? Il mio vantaggio era che potevo mentire a quel bambino ed essere nel giusto. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07, quasi 8 minuti. È giovedì 5 maggio del 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Da piccolo non riuscivo a suonare il flauto in pubblico. Mi tremavano le mani. Non che fossi un musicista, ovviamente. Semplicemente non riuscivo a suonarlo in classe, durante la lezione di musica. Mi succedeva anche con la diamonica a bocca, quella piccola pianola che funzionava se ci soffiavi dentro. Quella però era appoggiata sul banco, quindi il problema del tremolio non c'era. Ecco, il flauto invece era una condanna. Il giorno prima della lezione io a casa mi esercitavo e facevo Fra Martino e lo facevo perfettamente. Mi mettevo davanti allo specchio. Le mani erano immobili. Le dita aprivano e chiudevano i fori del flauto armoniosamente. Solo che poi, il giorno dopo, andavo a scuola. Facevo le prime ore senza ascoltare quello che diceva il professore di turno. Con la testa io ero già alla terza ora, quella di musica, quella in cui, come gli altri, mi sarei dovuto alzare dalla sedia e suonare il flauto. Partiva il primo a destra, poi a scalare si arrivava fino alla mia seconda fila. La professoressa Sintani non diceva niente, non diceva neanche il tuo nome. Tu sapevi già che dovevi alzarti e nel silenzio generale fare il tuo pezzo. Che era il silenzio, era quella la cosa che mi preoccupava, cioè il fatto che tutta l'attenzione di tutti fosse focalizzata solo ed esclusivamente su di me. Le prime volte le mie mani avevano tremato talmente forte che avevo anche sbagliato alcuni passaggi. Il problema vero però era non farsi vedere dai compagni, altrimenti eri segnato come uno sfigato a vita. Col tempo poi ho trovato degli escamotage. Cioè, avevo capito che il problema era il silenzio, giusto? Quindi avevo chiesto al mio vicino di banco di fare una cosa molto semplice. Fare un po' di rumore. Non urlare o fare gesti inconsulti, semplicemente fare un po' di rumore. Del fruscio, del mormorio, cose tipo prendere libri della cartella, appoggiarli sul banco, spostare oggetti o anche solo tossire. Ecco la cosa che da bambino non mi riusciva proprio di fare, suonare il flauto in classe. Oggi quel problema non ce l'ho più. Cioè, è vero che non mi capita più di dover suonare un flauto davanti a qualcuno, però quando mi capita di stare davanti a un pubblico, davanti a un microfono, non mi tremano più le mani. Perché le cose cambiano, no? Però c'è stata una cosa, magari esigua, magari stupida, magari no, che tutti noi da piccoli proprio non riuscivamo a fare. Giocare a calcio, scrivere temi, provarci con le coetanee, parlare in pubblico, fumare sigarette, andare sott'acqua, disegnare, mangiare carne, formaggio. Poi col tempo le cose sono pure cambiate, ma da piccoli proprio quella cosa lì non ci riusciva. Ecco, la mia era suonare il flauto. E la vostra? 800 24 0024 per chiamare in diretta oppure 349 238 6666 per mandare un sms. Magari era più di una la cosa che non riuscivamo a fare quando eravamo bambini, però ce n'era una in particolare che ci metteva una pressione addosso incredibile, perché tutti la sapevano fare e perché tutti ti guardavano come a dire: ma perché non la fai? Sto frequentando questo bambino in questi giorni, che è il figlio di un vicino di una coppia di vicini di casa, con cui non dico che passo del tempo, però sì, gli è capitato di passare a casa mia e ieri mi è capitato di portarlo a giocare a tennis e adesso vi racconto cosa è successo. E guardandolo giocare mi è proprio venuta in mente questa cosa, che da piccoli c'è questa condanna, che, anche perché poi non riesci ad accettarla benissimo questa cosa, perché sei piccolo, perché non sai che anche da grande ci sono delle cose che non saprai fare e che tutti ci sono delle cose che non sanno fare. Per te quella cosa che non sai fare e hai 10, 12, 6 o 15 anni sei l'unico a non saperla fare e sei l'unico imbecille che non la sa fare. 800 24 0024 oppure 349 238 6666. Visto che quando li abbiamo chiamati sono arrivati, oltre agli adulti che sono stati bambini, se ci sono dei bambini all'ascolto e hanno voglia di raccontarmi qual è quella cosa che proprio non riescono a fare, ne parliamo insieme, volentieri. Se avete 10 anni, se ne avete 11, se vostra mamma è di fianco, magari state ascoltando di nascosto, come ha detto quel ragazzino che ascolta Nicoletti la sera di nascosto in podcast. 800 24 0024, 349 238 6666. Alcuni esempi che sono arrivati su Facebook durante la giornata: Laura, non riuscivo da piccola a non offendermi per un non nulla. Diego, non riuscivo a fare i dribbling. Elena, ho sempre sofferto per la mancanza di un minimo di abilità ginnastica. Non sapevo fare al liceo, non riuscivo a fare un servizio decente nelle partite di pallavolo. Lorenzo, non sapevo fare la pertica. cioè non sapeva arrampicarsi sulla pertica, non fare la pertica. Donata, non sapevo disegnare. Barbara, non sapevo telefonare agli estranei. Che so, uffici pubblici, la scuola. E poi il primo lavoro da grande l'ho trovato in un call center. Barbara, una legge del contrappasso. Serena, da piccola non riuscivo a stare da sola. Chiara, non riuscivo a fare il sonnellino pomeridiani, lunghi pomeriggi sveglia a guardare il soffitto. Lorenzo, non riuscivo a impennare con la BMX. Barbara, non riuscivo ad allacciare le stringhe delle scarpe come tutti gli altri. E ancora oggi faccio gli anelli. Oh mamma, che roba orribile. Quelli che fanno i due anelli e poi ci fanno un nodo insieme. 800240024 oppure 349-238-6666. Che siete adulti o che siete bambini, se c'era qualcosa che non riuscivate a fare, oggi è la puntata per voi. Dunque, ieri mattina la mamma di Ettore mi ha chiamato e mi ha chiesto se lo potevo accompagnare alla lezione di tennis. Allora, ci tengo a precisare, per chi non lo sapesse, che Ettore ha 8 anni ed è il figlio di una vicina. E che il fatto di essere stato gentile con loro in un momento di difficoltà è chiaro che mi ha reso simpatico a tutta la famiglia. So che posso parlare di loro serenamente, perché tanto loro non mi ascoltano. Loro non hanno la TV, ascoltano solo un'altra radio, internet non se ne parla proprio. Però leggono molti libri e tutti i principali quotidiani. A me Ettore sta molto simpatico ed è stato divertente averlo a casa per cena mentre sua mamma e suo papà cercavano di far uscire le chiavi della macchina dalla macchina dove ce le avevano chiuse. A dire la verità, avrei anche voluto essere lì a guardarli. E invece ero a casa a prendere lezioni di Grand Theft Auto da Ettore. Ah sì, perché Ettore, di nascosto alla sua madre, gioca la PlayStation come un demonio. Suo padre lo incrocia ogni tanto sul ballatoio. Prima non mi salutava. Ora, dopo la mia serata con la sua creatura, lo fa con una certa cattiveria. Mi ha salutato proprio stamattina e mi ha anche ringraziato per aver fatto da babysitter volante gratuito. Però è strano, perché è come se questa situazione di sentirsi in debito lo facesse un po' indurire. E in più sa che tutto era partito da un suo errore, che aveva chiuso lui le chiavi nella sua macchina, che è una roba da dilettanti. E quindi sapeva che se anche non me ne fregava niente, d'ora in poi io l'avrei sempre guardato come si guarda uno che chiude le chiavi della macchina dentro la macchina. Questo probabilmente lo rende nervoso. Quindi mi saluta ma non sorride. Secondo me gli sto un po' sulle palle. Comunque, ieri mattina, dalla telefonata della mamma di Ettore, ho scoperto che al piccolo io piaccio, insomma gli sto simpatico, e che lui insisteva perché lo accompagnasse al tennis ieri sera. Io non avevo altro da fare, quindi ho accettato. Però dovevano procurargli un casco, perché io uso la Vespa, la macchina non la uso mai. Paola mi ha detto che il tennis è molto vicino, e tra l'altro è un posto che conosco perché ogni tanto ci vado pure io. E loro sono genitori molto alla mano, si fidano. Ettore ha un casco che usa quando va in bicicletta, e se per me andava bene lui poteva indossare quello. Ora, se io avessi un amico avvocato, gli sarebbe venuto un infarto di fronte al mio sì. Perché fidarsi è bene, ma quando porti un minore in moto e lui non è in regola, e se per caso succede qualcosa, anche se tu non c'entri niente, finisce tutto molto male. Ma io sono uno fiducioso, e poi avevo voglia di fare una cosa gentile per Ettore, che me l'aveva chiesto. Sarei andato piano, in fondo il motorino è una bicicletta che consuma benzina. E allora ieri sera l'abbiamo fatto, siamo andati al tennis. All'inizio io non volevo rimanere, ma poi ho visto gli altri bambini del corso e Ettore che mi cercava con lo sguardo mentre si toglieva la tuta e controllava che fossi ancora lì. E allora ho deciso che sarei rimasto. Il campo è un campo in terra rossa, è appena scoperto, quindi in ottime condizioni. Io lo so come vanno le lezioni, e prima di vederle giocare davvero con il maestro, che tra l'altro mi pare sia pure un ragazzo serio, ci vorrà un po'. Devono parlare, fare un po' di esercizi, un po' di corsa. Resisto, quindi tempo 10 minuti, li vedo tutti e tre in fila a fondo campo, pronti a colpire la pallina e poi spostarsi per far colpire quello dopo e rimettersi in coda. È un esercizio di riscaldamento. È il peggiore di tutti, perché quello dietro è sempre troppo vicino e tu hai paura di prenderlo dentro e sbagliare il colpo. Il bello però viene dopo. Viene quando il maestro comincia a piazzare birilli in giro per il campo e inventa movimenti che simulano una partita, di modo che i colpi abbiano un certo livello di difficoltà. Ah, dimenticavo di dirlo. Ettore gioca male. Ma non il male che sei un bambino e per forza che giochi male sei un bambino. No, no. Ettore gioca male nel modo che quello non è il suo sport. Io non lo so se è genetico o che cosa, ma ci sono alcuni sport che so che se ci provassi anche una vita ci farei schifo. Per esempio, ho provato a giocare a pallacanestro. È uno sport di squadra, di movimento e c'entra la palla. Io gioco a pallone e pensavo che qualcosa ci avrei tirato fuori. Invece ogni volta che ho provato mi sono reso conto che ero ridicolo e che lo sarei sempre stato. Ecco, il tennis rendeva Ettore ridicolo tanto quanto la PlayStation lo rendeva leggendario. Vederlo giocare non è stato bello, ma proprio per quello non potevo andarmene. Avevo voluto stare lì e adesso ci rimanevo fino alla fine. E dirgli che era bravissimo. A dirgli di cambiare sport ci avrebbero pensato i genitori, che ci saranno degli svantaggi avere figli, no? Il mio vantaggio oggi era che potevo mentire a quel bambino ed essere nel giusto. Non ne beccava una. Faceva veramente schifo. Eppure si impegnava. Ettore, ho la sensazione che farà fatica nella vita. E perché ci prova? E quando ci provi in una cosa in cui non sei per niente capace, significa che ti aspetti di migliorare e poi di cavartela. E allora invece che gratificazione arriveranno solamente delusioni e sofferenza. Secondo me Ettore dovrebbe provare con il calcio. Ha il baricentro basso, ha una buona mobilità dei piedi. Solo che il calcio è uno sport che non è molto ben visto dalle famiglie che non hanno la TV in casa e che leggono tantissimi libri. È lo sport dei calciatori, delle veline. Che invece non è vero, è solo uno sport. Anzi, è quello più praticato al mondo. Quello più amato, che so io, in Africa, in Sud America, posti dove la ricchezza e la cultura di massa non sono proprio di casa. Ma io devo imparare a farmi i fatti miei e non gli affari degli altri. Soprattutto perché ad un certo punto è arrivato il papà di Ettore, che è venuto a portarselo via dopo l'ufficio. Ha incrociato il mio sguardo, mi ha salutato con un cenno della testa. E poi è andato direttamente dal maestro, visto che l'ora era finita e i bambini stavano raccogliendo tutte le palline. Ettore mi ha guardato e io gli ho sorriso facendogli il gesto di ok con la mano. E ho pensato, quando finisce di raccogliere, lo saluto e me ne vado. Intanto però c'era la conversazione tra il maestro e il papà di Ettore. Gli altri papà erano fuori che aspettavano, mentre lui aveva proprio voluto sporcarsi le scarpe con la terra rossa. Io non ho potuto fare a meno di sentire che stavano parlando del piccolo torneo sociale che stanno organizzando per la fine del mese. Quello che equivale tipo al saggio finale per le scuole di ballo. La questione è semplice. Tutti e due sanno che Ettore fa schifo. Solo che se avrà un tabellone decente, potrà almeno passare un turno, potrà vincere una partita. Se invece le cose vanno come devono andare, giocherà subito contro uno più forte e prenderà uno schiaffo. Io ero in grande imbarazzo per la situazione e dentro di me ho ringraziato mio padre perché quando ero piccolo e facevo pallanuoto è venuto in piscina e mi ha portato via, perché continuavo a bere e non piangevo solo perché sono orgoglioso. Così ho avuto la possibilità di cominciare a fare altro ed è stato meglio alla fine. Ho deciso che era troppo e ho salutato Ettore con la mano. Ho dato il casco giallo a suo papà e sono risalito sulla Vespa per tornare a casa. Speriamo che non me lo chieda più. Di portarli al tennis, dico. Che sennò va a finire che mi ci affeziono e allora sì che mi toccherà dirgli la verità. Dai, tuffati. Vieni giù. Vieni in acqua, dai. Guarda che ti porta l'acqua alta. Ti porta l'acqua alta. Guarda. No. Porti l'acqua alta. No. Vieni giù. Guarda, non c'è ancora il tempo a cambiare. Voglio fare un altro sport. L'hai capito? Ti porti l'acqua alta. No, no, no, sbagliato. Vieni giù. No, ripensato. Ci ho ripensato. Mamma, non c'è ancora il tempo a cambiare. Io ci ho ripensato. No, no, guarda. No. Ti porta l'acqua alta. All'acqua alta. Non sono mai stato capace da bambino di giocare a biliardino o a calcetto da tavolo, rullate a non finire senza mai prendere la pallina. Cesare. 349-238-6666. Irene, non riuscivo a fare la spaccata, era una frana con le pertiche, non sapevo fare la capriola. Massimo, da bambino non riuscivo a difendermi dal bullismo, perché avevo paura di fare del male irreparabile a chi mi aggrediva. Poi sono guarito, Vito. cioè nel senso Vito Caresto le dà invece di santa ragione a chiunque. Ciao Matteo, non riuscivo a scrivere con il gesso sulla lavagna a scuola, questo fino alle scuole superiori. Santo, ma perché, scusami, santo? Per il fastidio e il rumore, forse. Sbagliavo puntualmente l'assolo di clarinetto della marcetta Il Galletto Innamorato, quando suonavo nella banda del mio paese. Avevo 12 anni, Sandro. Non riesco a parlare ad una segreteria telefonica. Davide. Ma Davide, ancora oggi? O hai 10 anni, oppure hai bisogno che qualcuno ti aiuti. 80024 0024. Oggi Alberto mi ha scritto questo messaggio. Io da piccolo alle elementari non riuscivo a leggere ad alta voce in mezzo alla classe quando mi veniva chiesto, e visto che questa roba si avvicina molto al tremolio delle mani con il flauto, ho pensato che non potevo non chiamarlo. Pronto Alberto? Pronto. Ciao, come stai? Bene, bene. Senti, che cosa fai adesso nella vita? Quanti anni hai? No, 29 anni e faccio l'architetto libero professionista, lavoro per i fatti miei con mio padre che è un falegname. Però ti sento un po' giù, Alberto, cosa c'è che non va? No, niente, io ho il tono di voce molto basso, quindi... Ah, ok, scusa, altra voce. Quindi tuo papà fa il falegname e tu disegni le cose per lui? Esatto, io faccio l'architetto, mi sono messo con lui un paio di anni fa, e quindi io faccio l'architetto, progetto, lui si fa lo sbattimento di realizzare le cose che io disegno. Ma e quindi avete una falegnameria o proprio una piccola società, un'azienda? Abbiamo una falegnameria e sì, facciamo società, io e lui, poi insomma siamo liberi professionisti tutti e due. Quindi ah certo, non volete mischiarvi voi due, mi raccomando. Senti, no. Alberto, quindi... No, io vado in bottega a tagliare qualcosa ogni tanto, vado anche a montare, mi sporco le mani. Nel senso. Senti, provincia di Milano dove esattamente? No, la provincia di Monza e Brianza, a Misinto si chiama il paese. Misinto, ah giusto, perché esiste la provincia Monza e Brianza. Dimenticavo. Alberto, scusami, andiamo al dunque. Tu non riuscivi a leggere in mezzo alla classe, nel senso che ti tremava la voce o proprio non riuscivi a farlo? Mi tremava la voce, mi impappinavo, perché poi c'era questa abitudine, sia quando ero all'elementare che alle medie, nel senso che si decideva di leggere un brano e a turno, seguendo l'ordine dei banchi, ognuno doveva leggere una frase fino a quando non arrivava al punto del racconto. Sì. Quindi io, siccome mi agitavo molto, contavo le persone che c'erano davanti a me e cercavo di stabilire in anticipo qual era la frase che poi avrei dovuto leggere davanti a tutti. E ti preparavi? Quindi mi disinteressavo di quello che stavano leggendo gli altri, cercavo di indovinare la frase e mi preparavo, sì, per cercare di non impappinarmi. Però tanto poi lo facevo lo stesso. E a volte non riuscivo neanche a partire, perché talmente ero... agitato, mi sudavano le mani, i piedi. Ecco, questa cosa mi divertiva, che ti sudavano le mani, posso immaginare, ma anche i piedi. Anche i piedi, soprattutto i piedi. Cioè nel senso che tu percepivi nelle scarpe i piedi sudati. L'umido. Va bene, ci fermiamo qua Alberto, ti ringrazio moltissimo, è passato tutto ciò però, va bene, non devi più leggere in classe. L'università e poi ce l'ho fatto, okay. Tutte le cose più importanti. Bravo, grazie Alberto, ciao, buona giornata, ciao. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo ad un matrimonio, lo si capisce per diversi motivi. È un matrimonio abbastanza particolare, anche se è probabilmente uno dei modi di sposarsi più famosi della terra. Siamo a Las Vegas, ci sono un uomo e una donna sotto un cartello che ho scritto Wedding in Fabulous Las Vegas. Vegas Wedding 702 vegaswedding.com, se vogliamo dare anche il sito visto che c'è scritto su questo cartellone. Alle spalle loro un muro di color mattoni, e loro sono un uomo e una donna. Lui ha in testa un cappello, lei ha una canottiera bianca, tutte e due hanno dei pantaloni neri. Fanno il segno della vittoria, quindi immagino che siano felici di essersi sposati, a Las Vegas, con il vecchio adagio che dice What you do in Vegas, stay in Vegas. Federico Bartolini, 41 anni. A Las Vegas eravamo in due, le uniche persone che contano in un matrimonio vero, anche nella città più finta del mondo. In due soli, per potersi concentrare solo su di noi. Niente Elvis, niente parenti. Io sono qui. Io capisco che uno si sposi a Las Vegas. Niente parenti, Federico. Ma perché niente Elvis? Cioè, cosa c'entra che non c'è Elvis? Perché, forse perché tu volevi avere Elvis a Las Vegas. Ah, giusto, no? Forse perché Elvis fa il cameriere a Las Vegas. No? Non è morto Elvis, fa il cameriere. O a Parigi, mi pare. Comunque sia, io sono qui, @radio24.it, per mandare le vostre fotografie. Oppure il profilo Facebook è sempre quello. Matteo Caccia, io sono qui, per raccontarmi dove siete attraverso una fotografia. Torniamo invece alle cose che non si riescono a fare da bambini o che non si riuscivano a fare. Francesca non riusciva a fare le capriole all'indietro. Alberto non riusciva a fare le capriole in avanti. Matteo non riusciva a fare la pipì in piedi, Daniela a mangiare la carne, Francesca a mangiare la mela tagliata ore prima e diventata gialla all'asilo. In che asilo stavi, Francesca? Elisa non riusciva a versarmi l'acqua da sola, mi sembrava pesantissima e mi preoccupava il pensiero che da grande non sarei stata in grado di versarla ai miei figli. Monica non sapeva farla verticale, invece Gianni non riusciva a scendere bene le scale. Sì, le scale di casa degli edifici, facevo un gradino alla volta, prima un piede sul gradino sotto e poi l'altro piede sullo stesso gradino. Poi mi è passato. Bene, lo spero per te. Oggi mi è arrivato un altro messaggio, era un messaggio di Tommaso che mi diceva: non riuscivo a fare nessun tipo di sport di squadra. Pronto Tommaso? Pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Senti, bene. Qualsiasi attività che avesse a che fare con la competizione e lo scontro fisico, mi scrivi, quindi non era tanto il problema del gioco di squadra. Cioè, inizialmente sì, nel senso che io proprio non riuscivo a capire l'idea dello sport di squadra. Cioè, per me lo sport di squadra era qualcosa di... cioè, non riuscivo a capire perché delle persone di 6-7 anni dovessero competere in maniera così eccessiva. Ma per uno sport. E adesso lo capisci invece o semplicemente continui a non essere d'accordo? Adesso lo capisco, sono diventato un grande appassionato di calcio, quindi lo capisco, diciamo. Però non lo capisco a quell'età, nel senso che lo trovo esagerato, 7 anni, 8 anni. Ok, ok. E quindi cosa facevi? Cercavi di non partecipare a nessuno sport? No, non ce la facevo proprio, nel senso che i miei mi avevano iscritto a basket, ma io, a parte che il basket non mi piaceva, quindi era inutile. Cioè, il peggio del peggio, già non ti piacevano gli sport di squadra, poi pure una roba che non ti piaceva. Pure una roba che non mi piaceva. Che cosa fai adesso nella vita, Tommaso? Adesso studio, ma come interessi, come passioni, continuo a suonare, a fare altre cose, diciamo, che non siano sport. Va bene, però quella roba lì è passata almeno. Sì, sì, quella è passata. Ti ringrazio molto, Tommaso, buona grazie, giornata. Buona giornata. Ciao, grazie. Andiamo a Bergamo da Camilla. Pronto, Camilla? Ciao, io ciao. Non riuscivo proprio a suonare gli strumenti a fiato con la lancia, proprio non riuscivo, ero l'ultima della classe. Camilla, sei già la mia preferita in assoluto. Allora, primo, perché sei andata subito al punto. Secondo, perché quanti anni hai? Io ho 9 anni. Hai 9 anni e non riuscivi quando eri piccola a suonare? No, cioè sì, adesso. Adesso ce la fai? No, proprio. Ah, proprio non ce la fai? No. Senti, no. Che classe fai, la quarta elementare? Sì. E che strumenti suonate in quarta elementare? E stiamo facendo dei laboratori che stiamo provando un po' di strumenti. Ma scusami, sì. si fanno i laboratori in quarta elementare? Sì. E che strumenti vi fanno suonare? E adesso stiamo facendo tutti quelli a fiato, poi faremo la pianola, il piano. Ah, ok. Ma e quindi tipo anche il flauto c'entra con gli strumenti a fiato, immagino? Sì. E, ma cos'è che non riesci a fare? Cioè, ti imbarazza o proprio... cioè, a casa da sola... Non riesco a suonare. No, non riesco proprio a suonare, non mi esce nessuno suona. Ma in che senso non ti esce nessun suono? Se ci soffi dentro, già il flauto suona. O no? Sì, ma... Sì, quello riesco, ma tutti gli altri, quello con la lancia proprio non mi esce ma niente. Ma cos'è la lancia, perdonami Camille? Ah, con l'ancia, perdonami, L'apostrofo ancia, sì. Giusto? Ma perché sì. Devi soffiare troppo forte? No, devi fare una specie di posizione con le labbra e non riesco. È un po' un casino, Camilla, eh? Mm? Mi sa che è un po' un casino. Sì. Senti, che voto hai di musica? 9. Come 9? Ma non sai suonare? Danno 9. Com'è ridotta la scuola italiana? Boh. Senti, ma tua mamma è lì di fianco? Sì. Me la passi un secondo? Va bene. Ciao, Camilla, grazie. Ciao. Pronto? Pronto, sei la mamma? Sì, sono Monica, la mamma. Senti, Monica, questa bambina mi sembra che non abbia alcun tipo di problema per il fatto che non riesce a suonare in classe. Cioè, primo perché ha 9. Sì. E secondo perché si mangia pure la maestra da come... No, quello è vero, però lei ci rimaneva malissimo perché su 22 bambini era l'unica che non produceva un suono, per cui a casa poi tutto il pomeriggio era mogia. Quindi mogia. Ha un microtrauma dovuto a questo. Sì, ma proprio micro. Ma senti, ma dimmi dei laboratori invece. Cos'è un laboratorio di musica? Non fanno semplicemente l'ora di musica? No, è il bello del nostro comune. Noi abitiamo a Nembro, in provincia di Bergamo. Scusami, come si chiama? Nembro, in provincia di Bergamo. Nembro, ok. Per sensibilizzare i bambini al suono, all'uso degli strumenti, fanno venire nelle scuole alcuni rappresentanti, non so, di bande musicali. Ah, ok, di ok. Certo. Fanno conoscere lo strumento. Benissimo. Così sperano. Che di solito è una roba che fa bene, tua figlia invece è rimasta traumatizzata. Ma le facciamo un sacco di auguri. Grazie mille, grazie, buona giornata. Ciao, grazie Monica. Grazie a voi, ciao. Ciao, grazie, ciao, ciao. Andiamo subito a Bologna da Roberto. Pronto? Ciao. Ciao, Roberto. Cosa vuol dire che non riuscivi a scambiare il segno della pace in chiesa? una cosa stranissima, perché quando si era bambini, quando io ero bambino, ho 51 anni oggi, inizialmente durante il catechismo e alla messa di quell'epoca non era previsto il segno di pace, fu introdotto cammin facendo. Tra l'altro mi hai aiutato a ricordare una cosa che era là sepolta in un meandro della mente. Il fatto che non riusciva a dare il segno della pace, non te lo ricordavi più? Fu introdotta esatto questa cosa e io ero in estremo imbarazzo, sostanzialmente per due elementi. A, che ero costretto a farlo e mi imbarazzava da morire. B, che se non lo facevi poi i catechisti ti riprendevano e dovevi fare... Sì, ma continua a non capire, cioè tipo ti sudavano le mani e ti imbarazzava o non riuscivi ad allungare la mano? No, non riuscivo a allungare la mano anche perché non sapevo chi avrei incontrato, sai quando sei sui banchi in chiesa che ti giri, cioè, in chiesa puoi incontrare chiunque, Roberto, figurati dargli la mano. Mi hai aiutato a ricordare una cosa incredibile, giuro. Bene, Roberto, ti ringrazio molto, ti auguro una buona giornata. Ciao, alla prossima, grazie. Mi spiace per Alberto che non facciamo in tempo a farlo intervenire, però dice che in chiesa durante la messa non riusciva a fare girare il pitocchetto durante la messa. Non so cosa sia il pitocchetto, ma qualcuno me lo dirà. Devo chiudere, come al solito, con un racconto, visto che sto leggendo dei pezzi dei racconti che mi stanno arrivando a proposito di questa, come dire, come chiamarla, operazione che si chiama Il racconto che vi racconta. Vi aspetto al Salone del Libro giovedì 12 maggio, praticamente giovedì prossimo, tra una settimana, e continuate a mandarmi i racconti che vi raccontano. Io sono qui, @radio24.it. Sono nata nell'erba, un giorno di ottobre che non piaceva a nessuno, perché non era assolato, ma neppure proprio brutto. Che giorno è a metà, che non puoi definire. Sbiechi come certi sgabelli, lanosi come l'occhio di un vecchio. In realtà per me fu bellissimo, perché per terra, ma proprio per terra, io vidi per la prima volta l'erba, e con lei il mondo. Quasi nessuno ricorda il momento in cui è nato. Io sì. Ho un solo vaghissimo ricordo, leggero come organza. L'impressione di un colore che ti resta marchiata sulla retina, una sensazione a metà tra l'olfatto e la vista. Se fosse parte di un profumo sarebbe l'ultima nota, il languido accordo di base, la scia, come dice Susskind. Intorno c'erano le urla di mia madre, gli occhi di mio padre, una lunga sottana di lino e poco vento. Io però per un attimo brevissimo capii una cosa sola. Verde. Il verde e il suo odore. Una fragranza stranissima, come ovvio dato che era la mia prima. E che sovrastava tutto. Anche quella delle lacrime e del sangue. Avrei detto che fosse una specie di sudore, ma più fresco, come una pioggia estiva, se avessi saputo cos'era. E proprio perché sono nata in terra, mi hanno chiamata Gaia. Grazie a Gaia che ha scritto il racconto, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Stefano D'Andrea, a Margherita Farrelli, a Viola Bottoni e a Paolino Corleoni. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?